Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Allora, come sempre, le solite informazioni di servizio. La prima riguarda la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. La seconda riguarda invece il nostro sito www.radio24.it. Sapete che da un po' di tempo è cambiato, è più agevole la consultazione, si può scaricare via podcast qualunque puntata di qualunque trasmissione, si può interloquire anche con i conduttori, nel mio caso troverete il mio blog Guardie o Ladri e lì potete scrivere a commento o a proposta ciò che desiderate. Allora, alla nostra mail si è rivolto un radioascoltatore di Bassano del Grappa. Devo dire che non è stato l'unico. Perché? Perché il nostro radioascoltatore ha avuto dei problemi con Ryanair. Sapete che soprattutto sotto i periodi festivi, il periodo natalizio, c'è stato qualche problema con il riconoscimento di alcuni documenti validi d'Italia e non riconosciuti tali al momento dell'imbarco da parte di Ryanair. Si parla di ripicche, insomma, di mail ne abbiamo ricevute parecchie, ma quella di Tasca è particolarmente interessante perché fa presente un problema che sicuramente non ha interessato soltanto il nostro radioascoltatore, non è la unica compagnia quella coinvolta, la Ryanair, in questo tipo di disguidi, capita ahimè un po' a tutte. Allora noi per parlarne abbiamo chiamato Luigi Tasca, appunto da Bassano del Grappa, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo chiamato anche Roberto Tascini, che è il segretario nazionale dell'ADOC, che è l'Associazione Nazionale per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori. Buongiorno Tascini. Buongiorno a voi. E poi abbiamo chiamato anche Ryanair, però vedrete che Ryanair, lo vedremo adesso nel corso della puntata, ha preferito non intervenire. Tasca, intanto buongiorno e ci dica un po' qual è stata la sua disavventura con Ryanair. Allora, sostanzialmente in data 30 novembre 2009 abbiamo acquistato dei biglietti sulla tratta Treviso-Roma-Ciampino con la partenza il 26 febbraio 2010 e il rientro il 28 febbraio 2010. In seguito alla nota polemica della Ryanair contro l'ENAC, il giorno 23 dicembre 2009 viene comunicata da tutti i mezzi di informazione la soppressione dei voli della Ryanair a partire dal 23 gennaio 2010. Ovviamente per cercare di fare questo fine settimana su Roma prenotiamo degli altri voli su un'altra compagnia aerea. E però il giorno 7 gennaio 2010 viene annunciato lo sblocco della contesa Ryanair e quindi di conseguenza ci ritroviamo con due voli prenotati su Roma per il giorno stesso. Telefoniamo immediatamente al call center Ryanair, il quale ci comunica che verranno erogati i rimborsi, però con calma sostanzialmente. Certo, allora prima di continuare con la sua storia, sentiamo che cosa ci ha detto Ryanair quando l'abbiamo contattati per fargli presente questa e altre storie. Gentile dottoressa Fusconi, ci siamo confrontati con la direzione della Ryanair e riscontriamo la sua richiesta come segue. Caso Bonato e Tasca. Il passeggero è stato rimborsato per la somma totale di 306,38 euro in data 1 febbraio. È in nostre mani il documento relativo al pagamento. Cordiali saluti, Maria Pace Medolago Albani, Managing Director, CBO, Communication by Objectives. Allora, come avete sentito, questa era la lettera di risposta di Ryanair. Il nome di chi cura le pubbliche relazioni è più lungo della lettera stessa mandata da Ryanair. Comunque, i miracoli di Radio 24 sono miracoli, vero Tasca? Beh, sostanzialmente sì, perché contattando il call center ci hanno detto di inviare un fax a Dublino, alla sede centrale della Ryanair, al quale fax non abbiamo mai ricevuto una risposta. A quel punto, presi alla disperata, abbiamo contattato la sua trasmissione, la vostra trasmissione, e magicamente nel giro di una settimana vengono rimborsati i soldi. Cosa divertente è che i soldi sono stati rimborsati senza nemmeno avere una comunicazione. I soldi sono rientrati nella post pay dell'acquistatario del biglietto il primo febbraio e noi abbiamo avuto comunicazione non da Ryanair ma da Radio 24, dalla redazione di Un Abuso al Giorno, il 5 febbraio. Esattamente, infatti la Fusconi a cui si riferiva la lettera in risposta di Ryanair e chi mi assiste appunto in redazione per confezionare insieme ai registi questo programma. Allora, direi, caro Tascini, come vogliamo commentare questo tipo di comportamento? Ma indubbiamente è positivo che la questione si sia risolta, diciamo, in termini positivi per il cliente, però certamente questo tipo di atteggiamento da parte della Ryanair, cioè la mancata comunicazione e risposta, denota, diciamo, un atteggiamento che non è certo di grande attenzione nei confronti della sua clientela. Assolutamente, infatti è la stessa identica sensazione che io ho registrato. Tascini, vogliamo dare il vostro sito internet in maniera tale che così pubblicizziamo? Noi lo facciamo con tutte le associazioni di difesa dei consumatori, le chiamiamo a rotazione in maniera tale che tutte possano dare un momento, come dire, di contatto con i potenziali clienti. Qual è il vostro sito? Il nostro sito è www.adoc.org. Benissimo. Allora, altri radioascoltatori ci hanno contattato proprio in quel periodo che richiamava Tasca per le difficoltà che avevano nel momento dell'imbarco. Uno in particolare ci ha detto: insomma, abbiamo presentato una patente e ci hanno risposto picche. Vediamo qui che cosa ci ha risposto Ryanair. Caso Montalbano. La Ryanair non intende intervenire, ma rilascia la seguente dichiarazione. Ryanair conferma che gli unici documenti consentiti per viaggiare sono i passaporti e le carte di identità nazionali UE e AA, incluso le carte ATBT. I passeggeri accettano all'atto della prenotazione di presentare uno di questi documenti di identificazione quando si imbarcano. In nessun momento nessun altro accordo è stato fatto con il passeggero o con ENAC. Il passeggero Maria Montalbano ha fatto una falsa dichiarazione per la sicurezza quando ha effettuato il check-in online. Ha confermato che avrebbe presentato o il passaporto o la carta d'identità, ma non l'ha fatto al momento dell'imbarco. Le patenti di guida non sono accettate per viaggiare e a questo passeggero è stato correttamente effettuato un addebito per la riemissione di due carte di imbarco corrette. Allora, questa era la risposta della Ryanair. Allora, detto che sarà anche corretto, ritorsione, insomma, la vicenda mi sembra comunque allucinante, perché un documento che vale in Italia e vale per l'Italia che non valga per gli altri mi sembra comunque allucinante. Non varrebbe neppure il mio tesserino dell'ordine rilasciato dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti, che è un documento valido ovunque. A questo punto mi rivolgo a Tascini: Ryanair non me l'accetterebbe. Sì, è la cosa veramente stupefacente. Infatti questa vicenda abbastanza ingarbugliata, per cui c'è stato questo braccio di ferro fra ENAC e anche Ryanair, e che non si è conclusa, perché la compagnia proprio sulla patente ha chiesto del tempo al CISA, che è il Comitato Interministeriale per la Sicurezza Aerea, per valutare la possibilità di riconoscere anche la patente. Ma quello che troviamo assurdo è che appunto viene meno, diciamo, non viene rispettata una normativa, cioè una legge italiana, il DPR 445 del 2000, che riconosce la patente come titolo equipollente, e un'ordinanza del TAR Lazio che si è espressa in questi termini il 17 dicembre scorso. Per cui in effetti ci sembra proprio un comportamento vessatorio e inaccettabile. Sì, assolutamente, anche perché nel momento in cui poi oltretutto si va a richiedere al nostro radioascoltatore cliente, ne abbiamo preso uno per come dire, testimoniarne altre, si va addirittura ad addebitare la riemissione delle due carte d'imbarco, beh, insomma, francamente mi pare un po' troppo, no? Quello è veramente ha del clamoroso, tant'è vero che noi su questa vicenda riteniamo che da un punto di vista legislativo, legale, debba valere il principio della territorialità del diritto, trattandosi tra l'altro di un volo interno. Ma oltre quello, la cosa assurda è che riteniamo che possa essere configurata pure l'applicazione di una clausola vessatoria, perché l'articolo 1469 bis del Codice Civile dice che c'è il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo, si configura una clausola vessatoria. Ora, pagare 48 euro per la riemissione di una carta d'imbarco per, tra l'altro, un viaggio su un vettore low cost, per cui il biglietto sarà verosimilmente costato anche di meno, ci sembra proprio che non sia né in cielo né in terra. Assolutamente. Allora, io ringrazio ringrazio Roberto Tascini, segretario nazionale dell'ADOC, ricordo adoc.org per chi volesse avere ulteriori informazioni. Grazie al nostro radioascoltatore, in regia Filippo Aureggi e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.